un impianto categoriale limitato e l'orizzonte statistico indigeni ci lasciano a chiederci il senso che l'uomo da soli non svela. Se, come, dove deve andare, la nozione magica e solare ha perso. La scienza si è sbriciolata nel buio del dialogo fra laici. La voce con sé resta solare, da solo resta a sole il passo breve, che a viverlo sta facile spiegarlo, difficile chiarirlo se non nato. Siamo nel tragitto, dalla potenza all'atto, appigli di speranza e di memoria, se non disperazione. Dannati a poter dire no grazie alla natura, che affermo di ipoteca il nostro corpo. Pennello e tavolozza del pittore, calamo che scrive, cosciente che lo spirito sta al mondo, quale giustizia al gesto. E chiunque gli si ponga da nemico verrà assolutamente disatteso, come un fiammifero per terra, come una stella che cade. Siamo nel tragitto, potenza all'atto, appigli di speranza e di memoria, se non disperazione. Dannati a poter dire no grazie alla natura, che ferma il potere del nostro corpo. Pennello e tavolozza del pittore, calamo che scrive, cosciente che lo spirito sta al mondo, quale giustizia al gesto. E chiunque gli si ponga da nemico verrà assolutamente disatteso, come un fiammifero per terra, come una stella che cade.